Buonasera, siamo di nuovo qui con Samuelito. Ciao a tutti e a tutte. Ciao a tutti e a tutte. Quest'oggi non abbiamo chiamate, non chiameremo nessuno perché ci siamo rotti le palle, francamente. No, non è vero, non ci siamo rotti le palle, semplicemente abbiamo altri argomenti di cui parleremo, di cui, della quale e di a cui parleremo. Nella prossima puntata. Di domenica prossima. Sì, questo non significa che non abbiamo argomenti di cui parlare. Abbiamo una succosa puntata davanti a noi. Sì, principalmente abbiamo, diciamo, velocemente raccolto alcune notizie. Tra l'altro c'era la notizia scottante che Gigi ci ha mandato sul gruppo WhatsApp. Non so se l'hai letta. La notizia della settimana, qual era? Esatto, la notizia della settimana era la stessa foto di Toto Cutugno ogni giorno. Sembra che esista un gruppo Facebook dove... No, vabbè, ma questa siccome è la notizia principale della trasmissione. No, è alquanto strano, però comunque ne parleremo dopo. Parleremo poi dell'ultimo disco dei Verdena, uno dei gruppi più vittima di pregiudizi. E io purtroppo sono uno di quelli che hanno questi pregiudizi, quindi mi dovrai convincere, ti darò filo da torcere. Saremo un contraddittorio. Ci sarà la par condicio. Esatto. Sono usciti con l'ultimo album, End Cadence, il primo volume di due volumi, il secondo uscirà la prossima primavera, penso sì, qualche mese, ora non ricordo la data esatta. E poi sì, abbiamo qualche accenno all'attualità. Sì, ad alcune candidature un poco così. Non mi viene la parola. Però sì, ti raccomando, dovremmo scegliere molto attentamente le nostre parole, perché non vogliamo avere ritorsioni mentre andiamo a comprare la birra White Chocolate Off-License, perché... Vabbè, comunque parleremo dell'attualità, sì, di qualche nomina regionale e comunale che ha fatto abbastanza discutere. Per altri invece è stata una cosa normalissima. E per il resto tu volevi parlare poi di... E poi volevo parlare velocemente di... Il nuovo gioco della Microsoft. Esatto, sì. Per PlayStation e Xbox. C'è una buona notizia, che Kobane, una cittadina curda nel nord della Siria, è stata finalmente liberata dopo vari mesi di assedio, e poi ne parleremo un altro poco. Col carro armato degli A-Team. Ma questo lo parleremo dopo. Ovviamente non abbiamo mai un pezzo per iniziare. Vabbè, lo scegliamo. Loro sono i Boards of Canada. La canzone si chiama Music is Math. Ci sentiamo dopo. nostro pubblico si preoccupa degli stacchi troppo lunghi. No, ma perché non sa, non dopo... sa alcune cose tecniche, neanche voi. Frega un cazzo, no, vabbè, perché dopo quattro puntate finalmente siamo riusciti a mettere l'audio nello studio. Esatto. E anche il nostro pubblico, che è numeroso in momento, adesso può sentire quello che abbiamo in radio. Sì, potete sapere che fino ad ora semplicemente stavamo in silenzio sgranocchiando patatine. E c'erano sempre sei persone nello studio in silenzio per due ore. E noi facevamo, oh, ma questo pezzo spacca comunque. No, guarda, veramente questo è della madonna. Ora invece si possono ascoltare. E il prossimo pezzo, prima che Samuele introduca un altro argomento, è un pezzo abbastanza peso, se mi lascia un pezzo peso. Loro sono Jaffy e Fibronics, le sonorità molto molto molto in cassa dritta. Ci sentiamo dopo con qualcosa che riguarda l'attualità, è una sorpresa. Vi faremo vedere delle immagini incredibili. A dopo. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, f Rieccoci qua. ti ho colto. Mi hai colto di sorpresa, amica. Non lo fare più. Vabbè, parliamo brevemente di attualità e torniamo a parlare della liberazione di Kobane. Lo sapevi che è stata liberata Kobane qualche giorno fa? Sì. Kobane è una cittadina nel nord della Siria ed è stata sul news per molto tempo ultimamente. Perché? Lo sapevi? Soprattutto per le donne in Kobane. Le donne. No, è vero, sì, hanno attuato una resistenza. Hanno avuto un ruolo di primo piano. Sì, nella... non per le loro doti, sì. Di spettacolo. Ma ben altro. Facciamo non lo sono delle Pussy Riot, va. No, per carità. Ma facciamo lo spiegone per raccontare cosa è successo e perché ci interessa questa cosa e perché ne parliamo. Cioè, il popolo curdo è un popolo diviso tra quattro stati: Turchia, Siria, Iraq e Iran, e non hanno uno stato, non ce l'hanno mai avuto, perché quando le potenze coloniali gli sono dite la torta hanno semplicemente ignorato la loro esistenza, non esistevano. Hanno un casino di petrolio. I curdi? Non lo so. Vabbè, non Iraq. Sì, quei paesi là, sì. Quindi, vabbè, stanno divisi in ognuno di questi quattro stati. La loro identità è stata sistematicamente repressa e assimilata, cioè senza pietà. Cosa succede? Che nel 2011, durante la guerra civile siriana, i curdi hanno proclamato l'autonomia di una striscia di terra nel nord della Siria che si chiama il Rojava. E qui hanno il motivo per cui ci piacciono e ci stanno simpatici è che hanno creato una sorta di zona retta da un contratto sociale basato sulla convivenza etnica, religiosa, la partecipazione, l'emancipazione femminile, la ridistribuzione delle ricchezze e, ascolta un po', l'ecologia. Questo è Rojava. Quindi è una società molto, penso, abbastanza libertaria e egualitaria, che per una zona come quella, il Medio Oriente, cioè valla a trovare un altro posto dove ci sono cose di questo tipo. E sono riusciti a resistere all'avanzata dell'ISIS, completamente in minoranza numerica, per mesi e mesi di assedio, finché qualche giorno fa non sono riusciti a liberarsi e a liberare Kobane, che era un simbolo. Puoi mettere le immagini del carro armato e le vogliamo commentare. No, stiamo scherzando, perché oggi abbiamo visto un video sul Guardian che mostrava i mezzi di fortuna che si sono costruiti i combattenti curdi. Avevano costruito una specie di carro armato che sembra uno di quelli che si vede nell'A-Team. Sì, non avendo, diciamo, i mezzi che possono avere un esercito israeliano, oppure gli eserciti regolari, ovviamente sostenuti dalle forze occidentali, quindi abbastanza potenti, hanno questi mezzi di fortuna. E c'è questo video, vi invitiamo, vabbè. Ovviamente non è molto semplice da... sul Guardian. È sulla homepage del Guardian di oggi. Okay. C'è questo carro armato fantastico che si è costruito. Con delle saracinesche, dei tubi. sì, ce l'hanno fatta. Bene. Salutiamo la vittoria di... la presa di Kobane mandando un velocissimo canto del popolo curdo. Che fa un po' così. Kaçu horten şoreş van Kaçu horten şoreş van De pare zirni vişti man De pare zirni vişti man Natırsın şkuçkeve hovan Natırsın şkuçken hovan Hem derhine jaha bavan Hem derhine jaha kalan Biji biji ro java Biji biji ro java Şiboy te cane me feda Şiboy te cane me feda Erişen düşmün bun vala Erişen düşmün bun vala Kurno mala ve ava Kurno mala ve ava Keçu horten kahraman Keçu horten kahraman Şerdikim bu Kurdistan Şerdikim bu Kurdistan Kurdistan Jibok zarok bekijiyan Jibok zarok bekijiyan Hazırın bebin pakrevan Hazırın bebin pakrevan Kamışlo ve finko bane Kamışlo ve finko bane Amude derik heseke Amude derik heseke Tırbes bir sere kaniye Tırbes bir sere kaniye Bijir ojavaye Kurdistan'e Bijir ojavaye Kurdistan'e Keçu horten şoreşvan Keçu horten şoreşvan De parezin niştiman De parezin niştiman Natırsış kuçken hovan Natırsış kuçken hovan Em derhinin caha kalan Em derhinin caha kalan Rojava Kışı bişi rojava Şivoy te canime feda Şivoy te canime feda Erişin dişmen bun vala Erişin dişmen bun vala Kurno mala ve ava Kurno mala ve ava Keçu horten kahreman Keçu horten kahreman Şerdikin bu Kurdistan Şerdikin bu Kurdistan Jibok zarok bekijiyan Jibok zarok bekijiyan Hazırın bebin bakrevan Hazırın bebin bakrevan Kamışlo afrinko bane Kamışlo afrinko bane Amude derik heseke Amude derik heseke Tırbes pisere kaniye Tırbes pisere kaniye Bijiro javaye Kurdistane Bijiro javaye Kurdistan'e Siamo di nuovo qui senza musica di sottofondo perché Samuele si è distratto e allora mettiamo no, messa. C'è, vedi che c'è. Ah, c'è, no, Mi scusassi. No, volevamo parlare appunto, anzi volevo parlare, non volevamo. Volevo parlare perché mi sono abbastanza fissato con l'ultimo dei Verdena. Ma Samuele invece li schifa come non ci fosse un domani. Non esageriamo, però vorrei avere un contraddittorio. Perché? Perché li schifi? Perché probabilmente ti sei fermato ai primi due o tre album. Sì, effettivamente erano un gruppo che ho ascoltato anni e anni fa. Esatto. E tipo, poi ho smesso di ascoltarlo. E invece i gruppi si evolvono come qualsiasi organismo. Ok, lo devo ammettere. Convincimi. Unicellulare, pluricellulare. Infatti a quei tempi erano senza dubbio unicellulari. Esatto. No, vabbè, avevano anche il loro perché, per ora sono abbastanza cambiati, si sono evoluti in un nuovo genere che veramente prende da... sono diventati dei fascisti. No, assolutamente no. Sì, stanno uscendo praticamente da quando hanno fatto Requiem, che è l'album del 2007, è un album che è abbastanza di rottura dal precedente con Il suicidio dei samurai, che comunque era un gran bell'album, ma da Requiem hanno iniziato a sperimentare un bel po' di più, sia con le sonorità belle grosse, che ci piacciono a noi, sia con cose abbastanza più psichedeliche. Poi sono usciti con Wow, un doppio album, pochi anni fa, 4 anni fa, e ora sono tornati con questo Encadence volume 1, che lascia, diciamo, un po' straniti all'inizio. Anche io ai primi ascolti ho dovuto chiedere a chi aveva comprato il vinile, ho chiesto ad Alex, ma veramente suona così sporco e distorto? Lui ha fatto sì, tranquillo, non hai scaricato una versione farlocca. tra l'altro stavo pensando che una delle poche volte dove appunto secondo me sarebbe opportuno tipo sostenere una realtà non underground, perché io di solito sono solito comprare ad esempio CD e dischi ai concerti dei gruppi underground. Tu li compri? Sì, certo, se il gruppo mi piace sì, è un modo di sostenerli, no? Sì, principalmente diciamo io attuo questa politica, nel senso se vado al concerto ed è un gruppo che ovviamente non ha un contrattone con una major. Invece se sono gruppi mainstream, sti cazzi che mi compro il disco, me lo scarico, l'MP3. Sì, vabbè, da qui poi ci sarebbe da parlarne per ore sulla pirateria. Anzi, tu potresti essere un ottimo interlocutore. Sono un pirata da 15 anni. Sei un pirata. Però appunto sì, loro stanno, diciamo sì, sulla cresta dell'onda da un po' d'anni, però hanno dovuto affrontare alcune, tra virgolette, difficoltà, nel senso, ad esempio, la bassista ha fatto per un anno e mezzo la cameriera in un pub, sono stati fermi 4 anni e non hanno, diciamo, non sfornano album solo per fare il contentino. Ah, vero, la cameriera nel pub? Sì. Allora li rivaluto, guarda, ora mi riascolto la discografia. Allora potrebbe avere umili origini proletarie. No, il fatto è che sempre di più ci sono ovviamente situazioni del genere dove anche gruppi abbastanza noti e famosi non riescono a campare in toto con appunto i proventi della loro musica. In Italia è difficilissimo, cioè è un miraggio, cioè sì. Saranno 3 o 4 che campano. Sì, Vasco Rossi. Che tra l'altro è uno vittima di un sacco di pregiudizi anche lui. Sì, lo devo ammettere. Anche lui, no, ma non solo tu. Lui, Guccini e i Verdena sono i gruppi più martoriati dai pregiudizi in genere. Comunque, bando alle ciance, volevo mettere appunto il pezzo d'apertura del disco proprio per far capire quanto sporco, tra virgolette, sia il suono. E poi ne parliamo qui in studio, in questo meraviglioso studio, ne parliamo un poco di più e cerchiamo di capire come sono arrivati a questo tipo di suono. Ci sentiamo dopo. Questa è Ho una fissa da Encadence, non è non è una brutta parola, ci sentiamo dopo. siamo tornati qui in studio. Ci sono state alcune critiche delle quali parleremo poi dopo. Non sui Verdena, attenzione, per carità. Nessuno critica i Verdena. Sì, se avete pensato che magari i vostri dispositivi audio potessero essere rotti o malfunzionanti, non è così, è proprio il suono di questo album, non in tutte le tracce. Ad esempio ci sono tracce più acustiche come Nevischio, che sono molto, molto asciutte. Per tutto il resto c'è questo fatidico, come ha detto Alberto, di Verdena Petra, questo distorsore che ha messo un po' su tutto, anche sulle voci specialmente, e dà questa sensazione di sporcizia che io francamente adoro, se l'ha già capito. Samuele invece ancora scettico, lo ascolterà poi dopo, ma ci farà sapere. Sì, appunto, Alberto dice che è un album che sta sempre in rosso sul mixer, è molto, molto tirato. Ed è la prima volta che tornano a scrivere canzoni insieme direttamente in sala, quindi gemmando, perché comunque Wow e In Requiem erano abbastanza prodotti in studio, c'erano molte sovraincisioni, invece questo album è stato un ritorno a suonare, a gemmare insieme in sala, una cosa molto importante. Wow era di 4 anni fa, sì. Praticamente andranno poi in tour per questa prima parte di disco, avranno una band d'apertura fissa, i Jennifer Gentle, il pubblico dice sono molto meglio dei Verdena, io non mi sento di dire questo, però comunque sono gusti, non penso questo, anche perché niente, andiamo a sentire un'altra traccia, ne sentiremo ben tre per la gioia di Samuele, tre di seguito. La prossima traccia è la seconda del disco, si chiama Puzzle, e ci sentiamo dopo. qui siamo ritornati e ovviamente i Verdena sono stati presi d'assalto, insulti, improperi o improperi, è un casino. E il prossimo pezzo, che sarà anche l'ultimo, anche perché poi ci potranno denunciare, qua in studio si leva una parola. È un pezzo che si chiama Inno del Perdersi. Vi auguriamo di perdervi e poi di ritrovarvi, non si sa dove, di riperdervi e poi di ritrovarvi. Un pezzo abbastanza pesante, con una bella distorsione massiccia. E niente, se ovviamente volete scaricarlo, noi non siamo qui a dirvi cosa fare. Però magari è un argomento interessante, quello della pirateria, soprattutto ora che la musica si sta evolvendo, il mercato musicale si sta evolvendo in maniera velocissima, e magari potremmo poi parlare delle prossime trasmissioni per quanto riguarda. Sì, ricordo Matteo una volta ha fatto quella sua trasmissione, una delle quali era appunto dedicata, mi sembra, al copyright. Quindi magari andremo a parlare di Creative Commons e tutte queste vie di assicurare una canzone, o comunque parlare in generale del mercato musicale, che è da un po' che sta cambiando velocissimamente. Ormai la musica in streaming, cioè nessuno più scarica la musica qua. Non solo in Italia, ma qua con tutti gli spettacoli, 5 round al mese, l'infinito. Sì, cioè anche scaricare, cioè se ora tu hai soldi, ormai scaricare se hai soldi, cioè, mio nonno scaricava, se hai soldi sei un non lo so, sei un pioniere, mamma, i soldi addirittura scarica, cioè equivale tipo a comprarsi i dischi, ormai scaricare, quindi figuriamoci comprarci i dischi. Va bene, ci sentiamo dopo. Questa è Inno del Perdersi e buon ascolto e guardatevi il video. Guardate il video della canzone che sta. Come la pensai? Rieccoci qua. Entreremo in un altro argomento. Torniamo a Reggio Calabria, la nostra benemata città, e parleremo di un argomento sul quale faremo, soppeseremo le parole, insomma. Esatto, perché abbiamo molta paura di ritorsioni. Soprattutto ci troviamo ora. Ci troviamo a Duisburg. Abbiamo assistito alla famosa strage di mafia. E, no, semplicemente volevamo dare delle notizie, perché alla fine sono due notizie, poi voi potete pensarla come volete, potete interpretarla come volete. Facito un tofu. Cosa è successo? Che dopo più di due mesi dalle elezioni regionali, finalmente il governatore della Calabria, Mario Oliverio, del PD, era stato anche renziano questo. Sì, anche passato sì, passato batterista di Nicci Olivieri. Vabbè, Mario Oliverio ha composto la nuova giunta che è l'esecutivo regionale, e a destare clamore è stata la nomina di Nino De Gaetano alle infrastrutture e ai trasporti. Come è possibile? Perché ha destato clamore? Come è possibile che abbia destato clamore? E, vabbè, diciamo che De Gaetano è in una inchiesta chiamata non a caso il padrino. Qua abbiamo un siciliano che forse ce lo può pronunciare. Il padrino. Si pronuncia così. E praticamente a un certo punto gli inquirenti sono finiti per caso a casa del boss Tegano, della Tosca di Archi. Hanno appunto trovato un sacco di santini, tra virgolette, del suddetto, ed è partita, che erano diciamo un po' troppi per pensare che si trattasse di un caso. Vabbè, ma magari, però chi lo sa, forse è un caso, perché Nino De Gaetano è stato in fondazione comunista da anni, ma non solo, lui già nel 17, durante la rivoluzione bolscevica, lui era già là in prima fila con i suoi canti comunisti. Uno dei padri fondatori del CIUS sovietico. No, e quindi praticamente sì, ci sono queste accuse di essere stato aiutato un bel po' da alcuni compari di Tegano, del boss mafioso di Archi, nella campagna elettorale. Lo hanno aiutato sì, appunto, a prendere un bel po' di voti. Sì, però d'altro canto, sai, ci sono anche lo avrebbero. Però del resto lui magari è un puro caso, non lo so, perché lui in passato è stato anche nella commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria, capito? È la storia quella come... di Michael Jackson affidatario dei bambini. Sì, no, nel senso, ovviamente poi con questi indizi voi potete costruirvi la vostra storia, ognuno può costruirsela, anche gli inquirenti. No, niente, quindi una bella mossa, giusto perché si parla di nuova primavera in Calabria, a Reggio Calabria, è tornata la primavera. Sì, come ha detto Falco a metà. Falco a metà. Sì, questa primavera, dopo il buio, un vero buio durato 10 anni, con Peppe Scopelliti e la Giunta Arena, a un certo punto è arrivata questa primavera. Sono fioriti i fiori, sì, fiorita la spazzatura, cioè cos'è successo? Sì, tutto. La gente subito si è riversata in strada, a festeggiare, lanciava queste buste di spazzatura per la strada, festeggiando. Finalmente un sindaco di Reggio. E solo che praticamente nella giunta c'è stato anche qualche cosa un poco non sospetta, però alquanto inusuale per una forza politica che ha fatto inarcare qualche sopracciglio, diciamo. La Madonna. Perché chi è il vice sindaco? Sì, il vice sindaco è appunto Saverio Angelone, figlio di figlio di Knorr e di Comer. Praticamente da queste due entità è nato Saverio Angelone. Poi no, praticamente figlio del noto politico in forza alla giunta, alla passata giunta di Raffa ed Arena dal 2010 al 2012, quindi proprio quello che Falcomatà aveva detto prima delle elezioni, no? Andremo mai con loro, mai con loro, infatti mai dire mai, proprio perché ora il nuovo vice sindaco è appunto un noto esponente della passata amministrazione, proprio quella che lo stesso Falco a metà dichiarava illegale, illegittima, è una catastrofe. Quello era l'inverno, poi esatto. Ma ora con la primavera, appunto, praticamente Falcomatà, tra l'altro, poi si sposerà ora a giugno con la cugina di Saverio Angelone. Ma dai! Sì, questa è una, diciamo, una notizia che potete interpretare come volete, non vogliamo dire che ha sistemato. Noi gli facciamo la notizia. Io non voglio, la interpretate come volete. Io non voglio dire che ha sistemato il figlio del suocero, però noi riportiamo la notizia. Riportiamo la notizia e poi voi potrete sì, appunto, giudicare se questa è una vera primavera. Se è un, non lo so, se è un autunno, magari è un'estate. Magari un'estate, però comunque c'è un nuovo sindaco. È giovane, però su sindaco. Come pare un buon a me. È giovane, non devi capire bello, sistemati. Vabbè, detto questo ci fermiamo qua, perché siamo in Africa. Mettiamo un pezzo dei Clash, che ne dici? Sì, mi sembra molto appropriato con la primavera della regina. Sì. Dai, ascoltiamoci Clash. E ci sentiamo dopo. Shut your mouth. Oh. Africa, you enjoy it. Oh. Thank God. Eccoci qui ritornati. Sì, forse c'erano un po' le voci basse rispetto alla musica di sottofondo, però sono cose che capitano. Siamo ragazzi. Siamo ragazzi, sbagliamo. Siamo ragazzi fatti col pennello. Speriamo che adesso vada meglio. Niente, volevamo mettere due pezzi di una... No, sono due realtà, sì, di Reggio e dintorni. La prima è appunto la cosa che abbiamo intrapreso la volta scorsa, perché la volta scorsa abbiamo parlato con Ciccio Villari di limitazione. Non starò qui a ripetere di nuovo. Però che cos'è. Abbiamo promesso di mandare un pezzo, esatto, per puntata. Esatto, dove diamo sto cavo di uni come... questo accollo come si dice. Praticamente dovremmo sopravvivere per altre 24 puntate. Madonna dopo mia. Quindi è un bello stimolo a continuare. Abbiamo deciso, per non fare nessun favoritismo, visto che la volta scorsa siamo passati del negro, diciamo a caso, ora partiamo dall'ultima band della compilation, che è ovviamente in ordine alfabetico. Passiamo questo pezzo dei White Noise Corporation. Lo vuoi introdurre? Tu li conosci? Conosci Maurilio? Eh sì, conosco Maurilio. Non li ho mai visti live. Ho visto qualche video sul web. Ed è comunque, sì, hanno un po' di influenze tra il thrash metal e l'hardcore. Le fondono insieme. Da questa unione potrebbe nascere Kill Em All dei Metallica. Però no, non è solo questo. Non so se sono attivi ancora, penso di sì. Possiamo poi magari contattarli qualche altra volta, sì, magari li contattiamo e cerchiamo di capire se sono ancora attivi. Loro sono i White Noise Corporation da Reggio Calabria e la canzone si chiama Beyond Orwell. Yeah. Eccoci qui tornati, non sapevamo che cosa mandare e ho detto a Samuele: tranquillo, ti faccio io una sorpresa. E lui ha detto: magari stiamo mandando un po' troppa, no? Un po' troppo rock, magari se gli ascoltatori non sono avvezzi a queste sonorità. Un bel vocabolo questo, mi devo complimentare. Avvezzi. Magari se non ci piacciono sti cose, insomma, magari cambiano. Ed è per questo che metto un pezzo abbastanza tranquillo. Loro sono i Converge e ci sentiamo dopo. No, dai, no. Converge. Ora, se per favore la vuoi smettere di violentare le orecchie dei nostri ascoltatori. No, vabbè, volevo solo dire che sono un gruppo, magari poi avremo altro spazio per loro, lo spero. No, sono un gruppo. Io no. Sono un gruppo straight edge. Sì, straight edge è quella branca dell'hardcore, della fisica applicata. No, è una branca dell'hardcore che appunto ha fra i suoi componenti e partecipanti principalmente persone che adottano questa questa filosofia creata da Ian McKay dei Minor Threat prima e dei Fugazi dopo, che è quella di non bere, non drogarsi seriamente e non fare sesso promiscuo. Sì, esatto, solamente se uno è veramente interessato alla persona, quindi sì. E poi tu sei straight edge. È una io no. È una cosa abbastanza legata al veganesimo, al vegetarianesimo, come Samuele che è peschetariano. Sono un vegetariano a metà. Cioè mangi praticamente solo pesche. Bravo, l'hai capito finalmente. Come cazzo fai a mangiare solo pesche? Pesche. Tutto quello che ti serve. E tra l'altro e poi fare questa musica così violenta, cioè incredibile. No vabbè, comunque se volete qualche accenno e qualche approfondimento in più sullo straight edge, andate su Wikipedia e non ci scassa della nenna. La prossima canzone la sceglie Samuele, perché altrimenti dice che io ci vado pesante. Sì, dai, basta. Abbiamo una, non se ne può più. Abbiamo una onda su onda di Paolo Conte o un Nick Drake. No, invece il pezzo che volevo passare è il pezzo di un gruppo di amici nostri, sempre da Reggio Calabria, per rimanere nella terra della primavera. Ah, okay. E di Nino De Gaetano. Ed è i Central Bar. Loro fanno una musica un po', come definirla, lunare, un post rock molto vellutata, ambient, sì, un post rock sicuramente. Si chiamano Central Bar. Il nome è un gioco di parole che riguarda il fatto che loro la sala prova era a sbarre centrali, quindi hanno mutuato questo. Cos'è in inglese sbarre centrali? Sbarre centrali, ci siamo cresciuti tutti giocando per tutti, strada. Magari qualcheduno è un quartiere fondamentale di Reggio Calabria, che durante le rivolte degli anni 70 fu anche, lo sapevi che c'è stata la Repubblica di Sbarre, è stata proclamata per qualche giorno. No, tra l'altro quindi è una delle, sì, anche delle strade più vecchie di Reggio, che collegava nord. Sì, ma sud. Per fortuna adesso hanno aperto l'arteria, non so se hai letto, bello, su Strill, sì. L'arteria. Che congiunge il serpentone con una Sbarre centrali, l'hanno chiamata una strada lunga 20 metri, l'hanno chiamata l'arteria, sui giornali. Su Stretto Web, dei quali siamo dei grandi fan. Soprattutto, un sito fantastico. Soprattutto dopo, appunto, grazie a loro noi siamo venuti a conoscenza di questo vermo cane che infesta le spiagge della nostra città. Su vermo cane. Non posso portare i bambini, i figlioli, a mare. C'è su vermo cane. Scusa, chiello, la paletta, c'è vermo cane. Va bene. Chiusa questa parentesi di delirio, ci ascoltiamo Central Bar. Questo pezzo si chiama Oslo. Buon ascolto. Sì, c'era una disputa sul fatto se i Converge o la musica estrema avesse allontanato qualcheduno. Nel qual caso a me non me ne frega francamente una ceppa. Ho appena visto che gli ascoltatori si sono dimezzati dopo i Converge. ma tu vuoi intrattenere o vuoi parlare seriamente di musica? Tu vuoi intrattenere, vuoi le musichette? Ma neanche violentare le orecchie. Perché no, perché no? John Cage alla fine arrivava sul palco e stava zitto, faceva silenzio e tutti quanti erano lì a aspettare che accadesse qualcosa, invece era quella la per... Cioè, ci sono varie... Va bene, dai, andiamo avanti con la trasmissione. Allora, mettiamo i Converge, questo... Torniamo a Londra, siamo stati a Reggio Calabria, adesso ritorniamo a Londra, il posto dove siamo. Lo sapevi che stanotte ci aspettano ben meno 2 gradi, cazzo. Meno 2 gradi, ma niente in confronto a New York, dove abbiamo visto che c'era. No, in questo momento infatti c'è Fefo sepolto sotto una tempesta di neve. Forse non ci sta nemmeno ascoltando perché le comunicazioni non sono più disponibili. Sì, ci diceva prima che lui era alto un 5 piedi e qualcosa. Mentre si prendevano 7 piedi. 7 piedi di neve. No, vabbè, diciamo che qui ce la passiamo bene. Noi siamo solo a meno 2. Cioè, diciamo che la cosa principale è il cambiamento climatico che sta diciamo devastando un po' questo pianeta dove viviamo. Ma tanto, cioè, a me non me frega un cazzo, cioè, perché poi io fra 70 anni muoio più o meno. Io vivo in un warehouse. Il cambiamento climatico in realtà mi fa bene perché non ho il riscaldamento a casa. In un warehouse. Sì, ma anche se fosse, sì, io sono favorevole alla politica energetica del G8, le emissioni di CO2, okay, alla fine dobbiamo pensare a... Chiudo la trasmissione e me ne vado e Michelangelo è espulso da questa trasmissione. Quando tornate a casa questa sera, parliamo un po'... date una carezza, date un bacio ai vostri bambini, Di cosa parliamo? Dai, che basta cazzate. Siamo già a un'ora. No, io metterei un bel pezzo in chiusura. Se vuoi parlare della marcia che c'è stata per gli affitti troppo alti qui a Londra. Eh beh, sì, ce ne sarebbe da parlare. Qua a Londra paghiamo un casino di affitto. Costa veramente tanto. Sì, è diventata la città probabilmente più ricca del pianeta. Ma anche più costosa del pianeta. Sì, volevo dire più costoso. Dove per prenderti una camera singola con un letto singolo da 2 metri per 2 metri ti costa anche 400 sterline. 50 sterline al in mese. Euro quanto sarebbe? No, non lo so. Facciamo 500. Un 550 euro, diciamo. 3 milioni e 3. Per vivere in una scatola. E proprio sabato qui a Hackney, ma anche in altri posti di Londra, c'è stata una manifestazione con un corteo che ha sfilato per la città per protestare contro questo caro affitti. Sì, tutta gente che vive in queste scatole appunto si è... Io purtroppo non ci sono andato perché ero completamente devastato dalla sera prima, ma ci volevo andare. Appunto, avresti fatto la The Walking Dead. Sì. La marcia zombie. Sì, praticamente la speculazione sugli affitti sta diventando veramente qualcosa di incredibile. Purtroppo. Qui siamo nella patria del capitalismo. Noti veramente come il fatto che un bene primario, quello di avere un posto dove vivere e dormire, quando viene messo sul libero mercato e quindi è soggetto a... i prezzi salgono e scendono in base al libero mercato, poi lo vedi sulla tua pelle. Ma questo, no? Questo lo sai perché soprattutto hai letto sul tuo portafoglio. Il capitale di Piketty, per esempio. Salutiamo la Thatcher. No, seriamente, sì. Ringraziamo Margaret Thatcher per tutto questo. Sta diventando alquanto ridicolo. Io non penso che possano crescere ulteriormente perché siamo arrivati ad una soglia quasi invalicabile. Oltre la quale c'è la rivoluzione popolare. Cioè. Ma non penso, alla fine... La gente gli piace la merda. La gente alla fine continuerà ad accettare sempre... principalmente in una metropoli come questa, secondo me, cioè, io la vedo molto difficile per quanto riguarda, non lo so, un sollevamento popolare, una sollevazione popolare, nel senso che alla fine ci sono stati molti riot qui, molte proteste, tutte dettate da alcuni omicidi, ad esempio, come è stata quella del 2011. Sì, la maggior parte sono delle rivolte che sono accadute qui, sono state con uno sfondo razziale. Sì, e quindi rivolte rabbiose dove appunto non c'era, diciamo, una situazione, una riflessione più globale, articolata, no? Articolata. Sì. Quindi per quanto riguarda quello, secondo me, se i prezzi dovessero salire ulteriormente, è probabile che la gente sarebbe disposta ad accettare anche quelle condizioni, perché, diciamo, bisogna vedere, perché lo sai, tutte le volte che succede qualcosa a livello di proteste grosse, tutto scatta all'improvviso, in maniera totalmente inaspettata, quindi è tutto da vedere. Ho sentito dal pubblico. Cosa diceva il pubblico? Sono finite le birre, infatti adesso andiamo al pub e la chiudiamo qua. Stiamo già trasmettendo. No, magari ne parleremo, sì, così, meno superficialmente. Perché argomento comunque è un argomento che non si può liquidare in due parole. Che merita una discussione più. Anche perché si sta diventando il problema primario in questa città, e penso anche in altre. È un problema primario mio. Sì, la cosa diversa, la differenza fra magari Londra e le altre città è che ora a Londra si sta concentrando, diciamo, la forza lavoro di un sacco di persone che magari non hanno opportunità nei loro paesi perché sono, diciamo, devastati dalla crisi economica, e quindi con la scusa di magari avere delle opportunità di lavoro qui e non altrove, appunto gli affittuari sono abbastanza, come dire, sono abbastanza, sì, degli sciacalloni, ed è una situazione, sì, che merita un po' più di approfondimento. Magari cerchiamo di trovare, di parlarne in un'altra puntata, dai. Sì, avevamo visto un documentario recentemente, quello su Elephant and Cast. Sì, magari se riusciamo a beccarlo, vi facciamo vedere appunto alcune immagini, alcuni filmaggini, come abbiamo detto prima. Va bene, direi di chiudere. Prima di chiudere vorrei fare un ultimo saluto. In realtà si tratta di un saluto finale a Mimmo Martino, artista reggino impegnato con i Mattanza da molti anni, che ha lavorato per una vita nel recuperare canti e tradizioni popolari e ritrasmetterli in musica. Lui è venuto a mancare un paio di giorni fa. Brevemente volevamo fargli questo piccolo omaggio e salutarlo. Chiudiamo con una canzone di Michelino Hinson, Micah Hinson, Million Light Years, dal suo ultimo album. Magari avremo anche lui ospite. Promettimi che questa canzone non violenterà le orecchie delle persone. No, tutt'altro. Invece le massacrerà soltanto. Le massacrerà. Va bene, ci sentiamo e non vediamo domenica prossima. E un saluto a tutti voi e ciao. Ciao. And you think less of me every day. I remember the way the sun would run across your face. How I wished time would stand still for another day. And some lonely day you'll write me and say it never was hard to love the boy that stole my heart away. And some lonely day I'll write you and say it never was hard to love the girl that stole my heart away.